i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. La comunicazione con il neonato, di Alice Sciucchino. Esiste una tribù in Amazzonia, nella cui lingua non esiste la parola tempo. Vivono liberi da orologi e calendari, svincolati dall'idea di movimento e collocazione spaziale. Una frase banale come «sta arrivando la primavera» per loro non ha alcun senso. Sembrano non possedere una nozione astratta del tempo. Immaginate un neonato come appartenente a questa tribù. I nostri cuccioli, infatti, vivono e percepiscono il mondo circostante solo attraverso i sensi, in un pieno costante qui e ora. Se hanno fame, loro sono fame. Se hanno freddo, loro sono freddo. Questo può essere veramente spaventoso. Per noi adulti è molto difficile relazionarsi in quel mondo fatto solo di sensazioni e di un immenso presente, abituati come siamo a scambi razionali di tipo verbale. E allora, come poter comunicare con loro? Un grande sostegno in questo senso viene dall'utilizzo delle routine. Per i genitori che svolgono lavori molto strutturati e con orari ben definiti come quello del militare, possono essere di grande aiuto perché, oltre a rassicurarlo, aiutano il neonato ad entrare nel ritmo della vita familiare. Come abbiamo già detto, il bambino non è in grado di calcolare il tempo in minuti e ore. Lo fa in base alle azioni quotidiane, quindi al ripetersi di alcuni rituali che precedono i momenti centrali della giornata, come i pasti o il sonno. Ed è proprio attraverso questi che passerà la nostra comunicazione. Non bisogna cadere nell'errore, però, della fretta. Prima di individuare le routine più adeguate alle vostre esigenze, è fondamentale concedersi il tempo giusto per una pratica molto spesso sottovalutata, ma di enorme valore: l'osservazione. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, di solito almeno tutto il primo mese, per seguire i tempi richiesti dal vostro bambino. Abbandonatevi a lui e alla sua innata saggezza. Come ci insegna Frederick Le Boyer, il bambino viene dal mistero e sa. Se lasciate che passi il giusto tempo, noterete che alcune cose, come il dormire o il mangiare, acquisiranno in maniera spontanea degli orari propri e le giornate inizieranno ad avere una cadenza più prevedibile. È appoggiandovi su questi tempi naturali che potrete iniziare a comunicare con vostro figlio ed essere una guida per lui. Ma andiamo più nello specifico e cerchiamo di capire come strutturare una routine che sia adeguata alle esigenze di tutti. Le caratteristiche fondamentali che deve contenere sono semplicità, ripetizione quotidiana, orario stabile. È importante quindi scegliere una sequenza di gesti o di suoni che pensate di poter riprodurre ogni giorno alla stessa ora per un buon periodo di tempo. Se siete una famiglia a cui piace uscire la sera e programmate di farlo anche con vostro figlio, forse il bagnetto prima della nanna non è l'elemento giusto per voi. Come il cullare il vostro bambino camminando in giro per la casa potrebbe non essere il massimo a lungo andare per la vostra schiena. Potrebbe andare invece benissimo una particolare canzone, suono o coccola. Qualsiasi cosa scegliate, nel rispetto delle esigenze del piccolo, ma anche delle vostre, andrà benissimo, purché sia svolta sempre nello stesso orario e seguita dall'attività specifica che si andrà a fare dopo. Il poter prevedere cosa succederà e il potersi quindi orientare nello svolgersi della giornata attraverso dei rituali è fonte di grande rassicurazione per i nostri cuccioli. Se il bambino manifesta segnali di fame e voi lo avete abituato che poco prima della poppata verrà, ad esempio, adagiato su una morbida coperta per dare modo alla mamma o al papà di prepararsi, lui capirà che a breve verrà soddisfatto il suo bisogno e sarà anche in grado di attendere qualche minuto in più. Attraverso questo tipo di comunicazione potrete, con delicatezza e molta pazienza, guidare il piccolo verso degli orari che possano essere più vicini alle vostre esigenze. Ma non tutte le famiglie si sentono affini a questa modalità così strutturata. Alcune si sentono a loro agio nel vivere più alla giornata. Forzare qualcosa che non è nelle proprie corde non può che generare tensione e i neonati, vivendo puramente di emozioni, percepiscono tutto. Quindi è meglio seguire sempre la strada che conduce quanto più possibile verso la serenità e il relax. Le routine possono essere considerate, insieme a molte altre strategie, come uno strumento da tirare fuori al bisogno. Infatti, se è vero che il tempo per un neonato ha significato solo come momento presente, è altrettanto vero che gli equilibri e quindi i bisogni possono cambiare con grande velocità. Si possono quindi inserire, con le dovute accortezze, in un qualsiasi momento se ne senta l'esigenza. Per favorire un addormentamento complesso, ad esempio, in un periodo familiare particolarmente movimentato. In ogni caso, l'osservazione e l'ascolto amorevole, accompagnato da una piccola valigia interiore di competenze e strumenti pratici, possono facilitare il cammino verso una crescita serena di vostro figlio e, non dimenticate, anche vostra. Alice Sciucchino nasce a Orvieto nel 1985. Dopo aver lavorato come tata per 10 anni, l'amore per questa professione e per i bambini l'ha spinta a studiare presso il centro nascite Montessori il metodo Montessori per la fascia di età 0-3 anni, che ha poi messo a frutto come strumento di sostegno pratico alla genitorialità. Con il desiderio di stare accanto alle mamme e ai papà con più efficacia nei loro primi momenti, nel 2017 si è formata come doula, figura professionale in grado di potenziare le capacità genitoriali che assiste emotivamente e praticamente la famiglia durante la gravidanza e dopo il parto. È laureanda in scienze dell'educazione. Contatti alice.sciucchino@gmail.com. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.